Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Eccoci qui, buon anno da Stefano Gallarini, anche nel 2012 il riposo del guerriero. Io ho fatto la famosa dritta, cioè in poche parole, sapete, Capodanno va festeggiato cercando di far tardi, poi una cosa tira l'altra, si festeggia l'anno nuovo e ci sono i fuochi d'artificio e poi bevi quel bicchiere, poi magari ne bevi un altro, poi mangi qualcosa, poi chiacchieri. Alla fine ho tirato le 10 del mattino, ovviamente senza neanche andare a dormire, ma questo non importa perché può essere solo un buon segno per fare in modo che il 2012 sia un anno meno catastrofico di quello che potremmo aspettarci. Lo dico perché oggi cercheremo di fare delle previsioni. Io so già, una la faccio subito, immancabilmente quando si invita un astrologo a Radio 24, metà degli ascoltatori sono assolutamente felici di sentire, perché comunque magari prendono la cosa come un gioco, c'è anche un po' di divertismanti in questa cosa, e invece altri: ah no, ma cosa fate? Ma noi vogliamo anche farlo, perché cerchiamo di così capire, come l'uomo ha sempre voluto fare, che cosa potrebbe accadere in quest'anno nuovo. Abbiamo poi anche la profezia dei Maya, perché bisogna capire se davvero riusciremo ad arrivare all'anno prossimo a festeggiare un 2013 o se proprio non ci arriveremo affatto. Quindi oggi sentiremo Antonio Capitani, poi andremo a scoprire cosa ci aspetta al cinema, i film che assolutamente non potremo perdere, o anche i telefilm che dovremo vedere, gli eventi sportivi che andremo a seguire o in televisione o magari direttamente sui luoghi. E poi chiederemo agli esperti se davvero questa profezia dei Maya arriverà o meno. Ma intanto, per festeggiare, arrivano gli ABBA. Happy New Year, perché è un buon anno ma lento, cioè un buon anno, hai capito, di quelli dove si spara a mille anche in velocità. No, loro sono più tranquilli, è un anno un po' più parco, più giusto per questo 2012. Antonio Capitani, ciao, ben... ciao, buongiorno, buon anno, bentornato. Grazie, ovviamente, che tu ogni anno qui sei sono come l'ICI. Non parliamo di tasse già adesso, lo facciamo. No, ma in effetti quello che vorrei discutere con te è proprio l'anno 2012 in vista di quello che ci aspetterà da un punto di vista anche economico, perché no? Allora io vorrei cominciare con l'Italia. Sì. Nel senso che un oroscopo, un tema di nascita, si può interpretare anche per una nazione, non necessariamente per un individuo. Certo. Quindi cominciamo a capire l'Italia in sé, lo stivale, di che segno? Guarda, allora l'Italia era nata come leone, ma ai tempi dell'impero, poi dopo, vabbè, di leone ha avuto ben poco, secondo me, nello scorrere dei secoli. Poi si prende in considerazione il momento della proclamazione della Repubblica Italiana, e per questo momento si erige il tema natale, che evidenzia che l'Italia è Gemelli ascendente Scorpione. E quindi? E quindi, insomma, siamo un popolo di comici, forse, fondamentalmente, come lo sono i Gemelli. C'è l'arte un po' di arrangiarsi, usciamo sempre fuori di riffo o di raffa da tutti i momenti più complessi che caratterizzano la nostra storia. Siamo un popolo, forse, che alterna l'allegria, la spensieratezza dei Gemelli alla cupezza, a volte anche alla... non voglio dire disperazione, però insomma, lo Scorpione sappiamo che è un segno particolarmente introspettivo, che tende forse a vedere il bicchiere. Che sarebbe l'ascendente e la luna anche è nello Scorpione. La luna rappresenta l'anima, quindi l'anima del popolo è scorpionica, quindi tendente, Sì, certamente a guardarsi dentro, a cercare sempre come potrei dire, di trovare anche la soluzione più ingegnosa, più strategica. Siamo degli strateghi, devo dire, di E anche un default. po' dei polemici, Non solo, c'è ci sempre, non va piace, mai bene però lo niente. scorpione, ora lo scorpione involuto Sì. naturalmente, non quello evoluto, rappresenta anche un po' le scorciatoie. Siamo un popolo di persone che, insomma, se c'è la spinta, la raccomandazione, tutto ciò che esula un po' dal fare le cose alla luce del sole, ecco. Quindi abbiamo questo angolino di anima e di personalità che non voglio definire truffaldino, però insomma, siamo un popolo di Ma quindi anche una mascalzoncelli. persona, quindi gemelli con ascendente scorpione, dovrebbe avere un po' queste Ma caratteristiche, quindi. guarda, in linea generale sì, certo è che Gemelli e Scorpione sono due fra i segni più intelligenti dello zodiaco, quindi sia l'individuo Gemelli ascendente Scorpione, sia un popolo Gemelli ascendente Scorpione, un popolo intelligente, sono entrambi intelligenti. Poi l'uso che fanno della propria intelligenza, insomma, bisogna, Vabbè, però, si può insomma, credo discutere. che anche il sapersi arrangiare comunque non sia Caspita, così facile, cioè la no. creatività Per è questo un che ti elemento dicevo, non importante da solo, questo ma proprio la punto di vista. strategia dello scorpione, oltre che la creatività gemellare. Ecco, quindi, insomma, l'Italia da questo punto di vista quindi è messa bene, nel senso che cioè, si dà da fare, si Esce inventa fuori, qualcosa, sì. riesce a barcamenarsi. Sotterraneamente, o più, come dire, palesemente, però si barcamena e devo dire che poi la scialuppa alla quale aggrapparsi anche nei mari in tempesta la trova Il sempre. fatto che siamo fondamentalmente un popolo di risparmiatori Sì. è più scorpionico che gemelli Sì, o è direi di sì. qualcos'altro? Direi di sì. Lo scorpione occulta il denaro, lo nasconde. Spesso non so chi ha alla nascita valori scorpionici nel Sì, proprio tema sì. natale. Spesso tende a nascondere il denaro in casa nei posti più impensati. Io conosco una persona che con un Giove scorpione, cioè, lo nasconde nel cassetto delle cipolle del frigorifero, capisci? Quindi va a occultare il denaro contante Ecco, quindi nei possiamo posti. stare tranquilli. Però Insomma, non siamo noi possiamo stare italiani che noi. salviamo Sì, sempre, come al ecco. solito. Il riposo del guerriero. L'anno che verrà, come sempre, nel riposo del guerriero con Antonio Capitani, stavamo parlando dell'Italia, come se fosse una persona. Certo. Ecco, questa signora Questa signora che se la cava che sempre se la cava poi, no? sempre ci fa piacere. Allora, abbiamo capito la situazione italiana, Sì. ma la situazione mondiale invece, cioè l'astrologia dovrebbe poter in qualche modo vedere anche la situazione mondiale. E avrebbe previsto una crisi simile oppure proprio non era scritto da nessuna parte? Lo so che a ritroso è tutto un po' più No, beh, facile sì, certo. No, forse. allora, io non mi occupo Sì, non è il di tuo, ecco, astrologia però. economica, però esistono due pianeti che sono strettamente, simbolicamente, riconducibili alle ricchezze, al denaro. Uno è Plutone, la plutocrazia, quindi il governo dei ricchi, e l'altro è Giove, che è il pianeta del denaro, dell'abbondanza, del benessere. Ora, Plutone, in questo periodo, già da qualche mese, riceve delle sberle clamorose da Urano. Urano è il pianeta del terremoto, della Dei destabilizzazione. cambiamenti, Questo, le sberle, traduciamole, non è che si pigliano no, proprio pugni direi. nel cielo, no, È è bello che, pensare, però, come una volta gli sì, dèi, hai ecco, capito? Però. bravo, infatti, in realtà si trovano una distanza angolare nello zodiaco, definita tradizionalmente dissonante, negativa, che sono i 90 gradi, che nessuno faccia della facile ironia, per cui, quando due pianeti si trovano a tre segni di distanza l'uno dall'altro, quindi 90 gradi, si crea un'amalgama un po', come potrei dire, non particolarmente propizio all'espressione delle loro Infatti si simbologie. chiama quadratura Quadratura, a questa, ecco, 90 gradi, quadratura. quindi che già Quindi, la quadratura non è, sì, ha non è. un'accezione No, non non particolarmente positiva, ecco. positiva. Quindi il fatto che Plutone, pianeta delle ricchezze, subisca gli affronti di Urano in quadratura, destabilizzazione, quindi le ricchezze di tutti noi, le ricchezze del pianeta, l'economia globale è in una fase di traballamento. Questo rapporto dissonante fra i due pianeti continuerà a resistere. Ecco, nel cielo. Diciamo, parliamo tra l'altro di due pianeti lenti, molto lenti, per cui impiegano molto tempo a spostarsi. Quindi quando litigano a lungo, quando sono amici rimangono per amici molto a lungo. Tempo. Sì. Quindi va avanti ancora un po'. Ora, Giove però, che è il pianeta dell'abbondanza, della ricchezza, del benessere, come dicevamo prima, invece con Plutone va d'accordo, almeno fino a metà giugno di questo anno appena iniziato. Mm. Quindi una stampella gliela dà questo Plutone, pertanto, tradotto in termini semplici, sì, pur nella destabilizzazione generale, non annegheremo con questo Giove che comunque farà trovare a chi di dovere le soluzioni giuste per farci rimanere a galla, per risolvere i problemi, per quantomeno risolverli temporaneamente. Poi ci sarà un periodo di interregno fra giugno e ottobre in cui tutto potrebbe accadere, perché Giove non darà più l'assist a Plutone. Però arriverà poi ottobre Saturno, che è un pianeta di stabilizzazione. Sì. Stringe un bel rapporto con Plutone e ricchezza, le ricchezze si stabilizzano. La situazione economica comincia a preoccuparci meno e pian piano io credo che progressivamente vedremo quindi la luce prima in fondo al tunnel. Della fine del mondo profetizzata dai Maya. Che secondo me non ci sarà. No, beh, certo, ma anche secondo me non ci sarà. Ma detto questo, poi nella seconda parte del riposo del guerriero affronteremo anche questo argomento. Ma dovremmo proprio sperare che non ci sia, perché se dopo va bene, quindi certo, dobbiamo quindi, almeno goderci il almeno, momento certo, buono. Giusto, giusto. Quindi, oltretutto poi Saturno entrerà proprio nel segno delle ricchezze, che è lo Scorpione, e quindi secondo me stabilizzerà un po' il clima generale, che fino ad allora sarà ancora un po'. Ecco, Giove dove, in che segno andrà a finire? Adesso è nel Toro, dalla metà di giugno entrerà nel segno dei Gemelli. Che è il segno dell'Italia. Quindi il questo mi fa pensare, se non mi sbaglio, però sì. Antonio dimmi tu, mi fa pensare che noi italiani ancora una volta riusciremo davvero a barcamenarci o mica tanto? Ni. Perché anche qui dovrei scendere un po' nel tecnico, ma non voglio annoiare nessuno. Diciamo che Giove favorirà in modo particolare i nati nei Gemelli, sì, entro grosso modo il 5-6 di giugno. L'Italia invece è nata dopo, non mi ricordo se è il 9 o il 10, quindi sì, la aiuterà verso la primavera del 2013, sarà un transito un po' rapido. E comunque, insomma, meno male che c'è, sempre meglio di niente. Beh, però il grosso, secondo me, Giove lo dà ai nati fra la fine di maggio e quindi la prima l'Italia settimana è un po' di fuori giugno. Da questa L'Italia situazione. È un po' oltre. Ecco, in questo interregno potrebbe accadere di tutto o ma? Ma insomma, ci sarà forse qualche momento ancora di affanno. Non voglio dire di spavento perché è il primo dell'anno, però, cioè, diciamo, no, certo. Però ecco, diciamo che davvero è una ruota, cioè come si diceva prima, certo. Ecco, i nemici poi però sì, diventano amici. Sì, dopo un po', sì, ma poi è proprio dal momento della crisi che nascono le soluzioni, che nascono i momenti, insomma, dopo la notte arriva il giorno, è una banalità colossale. No, però è vero, perché però, insomma, la vita è fatta anche di banalità. È no? fatta, cioè, ecco. Le cose accadono anche perché così poi si affrontano, sì, e sì, in qualche sì, modo sì, si risolvono. A proposito, proprio grazie alla crisi sono tantissime le parole che sono entrate in uso comune nel 2011, vediamo quelle che quindi nel 2012 incontreremo per forza, e a questo proposito ovviamente c'è la nostra Francesca Dragotto. Buongiorno a tutti e buon anno. Buon anno, allora... buon anno anche a te Francesca. Allora, da cosa cominciamo? Dal berlusconismo, che ormai, voglio dire, c'è stata la fine del berlusconismo e diventerà un modo di dire, credo. Beh sì, lo era già, però a differenza di prima l'accezione è diventata marcatamente negativa, quindi come in tutte le fasi finali di epoche o di tendenze, movimenti che hanno subito delle grosse evoluzioni a partire dal loro momento iniziale, anche in questo caso possiamo assistere alla registrazione di un profondo cambiamento di connotazione che ha portato a una connotazione tendenzialmente negativa. Ecco, ma voi glottologi come fate a capire che è tendenzialmente negativa? Cioè è un'idea di Francesca Dragotto oppure arriva no. da... Per capire, no? Perché uno Beh, potrebbe arrabbiarsi, dice no, per me il berlusconismo invece è una fase assolutamente positiva perché ha cambiato le regole del gioco in alcuni casi, eccetera, eccetera. Allora, in sé la parola non dovrebbe avere né una connotazione positiva né una connotazione negativa, infatti, perché dovrebbe semplicemente riferirsi appunto a un periodo storico, un certo. una tendenza, esattamente. E poi la posizione centrale del parlante, l'uso che ne fa il parlante a decretare per certi periodi un'accezione positiva e per certi altri un'accezione negativa, quindi in questo caso il dato statistico, il numero di attestazioni che ritroviamo in tipi di testo differenti ci permettono di capire qual è la posizione del parlante nei confronti confronti di un fatto quando a quel fatto si riferisce utilizzando la parola berlusconismo. Ecco, però allora a questo punto io ti chiedo, ma tutti i nismi hanno sempre un'accezione negativa in generale o c'è qualche eccezione? No. Ma ce ne sono tanti, anche perché in sé ismo e poi l'elemento parallelo ista per chi si riferisce a un ismo, quindi berlusconista rispetto al berlusconismo, in sé appunto, come dicevo, non hanno una caratterizzazione positiva o negativa. Inizialmente si definisce ismo quel movimento, quella pratica che ha a che fare con l'elemento da cui l'ismo è preceduto, quindi sarà poi la dimensione comunicativa a stabilire se l'elemento linguistico ha una carica positiva o negativa o anche intermedia. Quello che è interessante in questo elemento è vedere come la carica ha subito dei cambiamenti in considerazione poi degli esiti più o meno favorevoli della politica. No, è che mi viene sempre in mente che stavo pensando in generale, no? Che quando è legato proprio a un momento politico, e vale per tutte le nazioni, mi sembra che l'accezione sia sempre negativa fondamentalmente. Ecco, è un pensiero che mi è venuto pensando ai nismi che mi sono venuti in mente. Ma il pensiero è un pensiero storiografico, quindi è un uso di parole fatte da qualcuno che ha deciso di riferirsi a quel periodo stesso, per cui se magari il neologismo, se si trattava di neologismo, o la neosemia, se si trattava di un uso nuovo, di un termine già in uso, è avvenuto in coincidenza di una resa, di una visione critica di un certo fatto, di un certo fenomeno, è chiaro, la mia impressione è più che motivata, quindi una tendenza a riconoscere una valenza negativa per il termine, che ecco, però ripeto in sé non dovrebbe avere, certo. No, Antonio, io ti vedevo come in un acquario, cioè, posso parlare? Parla. No, era soltanto per venire dietro al tuo ragionamento. Infatti, prima del berlusconismo c'era stato il craxismo, anche, no? Quindi anche lì poi c'è stata una connotazione. È come se in mezzo non ci fosse stato niente, no? Infatti, poi ci sono invece quei termini, come giustamente diceva la nostra amica, neutri, il femminismo. Ecco, però io parlavo proprio di politica, in questo senso. È chiaro che quando parliamo di politica, innanzitutto è già il fatto che venga creato un neologismo a partire dal cognome, dal nome di un politico, ci dà l'idea di come il politico abbia fortemente caratterizzato l'epoca in cui ha agito, in cui ha operato. Poi diciamo che l'accezione può rimanere essenzialmente neutra se fino a quando quell'operato è stato suscettibile di diverse interpretazioni. Quando poi l'operato, come in questo caso, è andato a collegarsi ad un periodo essenzialmente nefasto, infatti tra poco mi ricollegherò a questo per dirvi qual è che secondo me la parola più rappresentativa, appunto quando questo accade inevitabilmente ismo trascina dietro quella che è la communis opinio su un determinato periodo. Ecco, quindi fermiamoci qui, tra pochissimo sentiremo invece le parole appunto nuove, tra virgolette, che tutto questo ha così fatto in modo di far crescere e che farà crescere in questo 2012. Il riposo del guerriero. Continuiamo a parlare di parole, appunto. Allora, l'altra quale sarebbe, Francesca? Spread, immagino, ma ho immaginato. Beh sì, non poteva che essere spread, che io però associerei a un'altra parola che era già ampiamente utilizzata nel corso della storia linguistica dell'italiano, ma che è ritornata ampiamente in uso negli ultimi mesi, che è baratro. Quindi c'è stato proprio un rinvigorirsi della parola baratro. Per quanto riguarda spread, quello che è interessante è l'uso che se ne fa, cioè il significato, perché naturalmente, tranne che per gli addetti ai lavori o per chi si è documentato, spread nell'accezione comune è il rischio di bancarotta, il rischio di catastrofe, il rischio della recessione, il rischio di stare male e di dover pagare per sottrarsi ai destini nefasti che lo spread può produrre. A me viene in mente una sorta di DDT spray, guarda, che tu dove spruzzi porta danno, per cui questo è quello che bene. L'assonanza della parola, no? Spread, proprio sembra una cosa che stai spruzzando da qualche parte. Prima di Natale a Napoli, se non sbaglio, hanno commercializzato anche un botto chiamato spread, quindi questo significa li hanno anche ritirati, ma questo è un altro discorso, alcuni non erano proprio legali, direi, per niente, ma comunque. Però sicuramente ci dà l'idea di come il termine si sia impresso nella mente dei parlanti, e sicuramente parlanti che fino a pochi mesi fa non avevano proprio idea che lo spread esistesse. No, certo, quindi lo si può usare anche per indicare che cosa? appunto il rischio del baratro. Il rischio del baratro, ecco, quindi è un modo per, ma sì, cioè possiamo dire non cadere nello spread, com'è che possiamo dire, non lo so. Sì, sicuramente, ecco, l'accezione che il parlante ha, richiama alla mente sentendolo, non è quella strettamente economica, ecco, non ha a che fare col differenziale, mettiamola così, anche se poi in realtà a livello passivo il parlante negli ultimi mesi è stato bombardato dal differenziale, per cui anche questo termine è sicuramente nel rango d'uso, quindi insomma immaginiamo un termometro dell'uso delle parole, ha risalito la china in maniera spaventosa rispetto ai mesi precedenti. Si tratta di parole che naturalmente già c'erano, ma che vengono utilizzate con un'accezione abbastanza differente rispetto a quella propria nel lessico comune, nel lessico di tutti. Ecco, baratro da dove arriva? Beh, dal latino baratrum, che troll ha ripreso dal greco baratron, voragine, profondità, precipizio, è caratterizzato dall'essere senza luce, quindi per estensione il baratro è l'inferno, l'abisso, il precipizio morale, anche, e questo è attestato se non ricordo male intorno al 1400, il disastro, la rovina anche in senso economico, per cui... Già si usava quindi? Sì, è un termine che ritroviamo da Dante in poi, in realtà... Sicuramente lo potremmo ritrovare anche prima, però diciamo che è una delle prime attestazioni celebri in Dante, che lo usa per definire proprio l'inferno, quindi insomma più baratro dell'inferno, il baratro è l'inferno, e quindi ecco l'idea, la raffigurazione ideale del baratro è un buco che inizia dalla superficie della terra e arriva fino al centro, quindi cosa c'è di più profondo, di più cavernoso? Assolutamente, cerchiamo una corda ovviamente per cercare di risalire la china e parliamo di restaurazione invece. Restaurazione sicuramente ne parliamo in un senso molto marcato, che è quello di rimessa in vigore di consuetudini, abitudini, ordinamenti, insomma di un qualcosa che era stato precedentemente abbandonato, quindi il ripristino, ecco, restaurazione in quel senso è il ripristino di un assetto politico. Quindi questa è una parola che è ritornata particolarmente, diciamo così, di moda. Monti. Sì. Beh sì, è una parola che ha avuto pochissimo margine di diffusione, ma che per il breve lasso di tempo in cui è ritornata in auge proprio perché è stata usata tantissimo anche dalla carta stampata o comunque dai giornalisti, ha goduto di una fama che nei mesi precedenti sicuramente non sarebbe stata prevedibile. Quindi anche in questo caso è un elemento del riuso, non si inventa ma si ricicla. Ecco, e poi arriviamo invece, e questa ci vuole per forza, e Antonio Capitani mi darà ragione, alla fiducia, ecco, parola che dobbiamo insomma fare nostra, questo sempre in generale, a parte anche il momento storico però... Sì, beh, direi che forse il tormentone fiducia sì, fiducia no è un po' una sorta di slogan che ha caratterizzato tutto quanto l'anno che si è appena concluso. Sicuramente delle due accezioni, quindi quella politica che troviamo attestata da prima della metà dell'Ottocento, quindi proprio l'atto di fiducia, dell'accezione politica possiamo star sicuri, nel senso che una volta che viene data c'è, cioè, mentre dell'altra che è quella relativa al grado di fiducia dei cittadini, di quella non possiamo star sicuri, insomma. Diciamo, ecco, che la prima si può ottenere con maggior facilità che la seconda. Ecco, senti, mi viene in mente una cosa, il soprannome Fido dato ai cani, o fedeltà, ha a che fare con fiducia o sono due parole? Sì, ha a che fare con la caratteristica per antonomasia del cane, il cane che è l'amico fedele, la radice è Fid, appunto fedele, il migliore amico dell'uomo, quello che torna sempre, quello che è felice per il solo fatto che il padrone esiste, quindi sì. Ecco, siccome ci saranno anche le profezie c'è anche la profezia dei Maya, hai capito? Quindi ho paura che qualche altra parola entrerà, insomma, a far parte del nostro lessico dal 2012 in poi, tipo profezia, ecco, lo sentiremo o leggeremo continuamente. Abbiamo aperto l'anno con Escort e sì, abbiamo chiuso con la restaurazione, quindi abbiamo toccato in quest'anno tutte quante le possibili gradazioni anche di atteggiamenti dei parlanti nei confronti della realtà circostante. La lingua è uno strumento a disposizione del parlante non solo per descrivere la realtà, ma per uno strumento che permette al parlante di far capire cosa pensa della realtà, e quindi credo che il 2011 più che mai sia stato un anno significativo, perché il parlante si è trovato a subire, ma al tempo stesso a vivere in maniera attiva tutte le possibili gradazioni comprese tra due poli opposti, un polo fatto di fiducia e un polo fatto di sfiducia, passami il gioco di parole, insomma, fiducia sì, fiducia no, c'era tutto. Va bene, vedremo che cosa accadrà, appunto siamo qui per questo, in questa puntata. Grazie Francesca Dragotto, ancora grazie buon anno. Ciao. E di nuovo auguri, ciao, grazie. Grazie. Antonio, allora torniamo a noi e vedi le parole quanto ci raccontano. Le parole, come i pianeti e come i segni, hanno un loro significato, quindi hanno un loro potere evocativo molto forte. Quindi quando prima si parlava di baratro, sì, di precipizio, di inferno, mi veniva in mente l'Ade, ma Ade altro nome Plutone, che il nome ecco, greco di Plutone. Quindi siamo sempre quindi, lì, sto vedi Plutone che poi lì, la radice poi di tutto ciò che si parla è sempre una. Possiamo esplorare tante strade, ma la verità è sempre una sola. Allora possiamo anche cominciare a capire come i vari segni si comporteranno in quest'anno di fronte alle difficoltà, insomma, della crisi, perché in fondo se accettiamo il fatto che ogni segno ha delle caratteristiche di base, anche l'atteggiamento verso una situazione cambia. Certo. E quindi cominciamo dall'Ariete, proprio andiamo in ordine. L'Ariete come vivrà questo 2012? Bah, guarda, l'Ariete devo dire che è tendenzialmente protetto dal Giove, che è il pianeta delle ricchezze, perché un po' per tutto l'anno, prima in un modo, poi in un altro, nel senso che da giugno, quando si sposta dal Toro ai Gemelli, comunque rimane sempre propizio al portafogli dell'Ariete. Devo dire che tutto sommato se la caverà abbastanza bene. Forse la terza decade dell'Ariete, che è vessata da Saturno fino ai primi di ottobre, quindi Saturno potrebbe in qualche modo far vedere proprio la crisona all'Ariete, anche se poi magari non ci sarà, potrebbe rendere l'Ariete più pessimista. Gli fa vedere oriented. Il bicchiere mezzo vuoto, sì, per ma a volte capirci. Neanche glielo fa vedere per niente. Non c'è proprio il bicchiere. Ecco. Un po' di prudenza ai nati di marzo, lì saranno proprio nell'occhio del ciclone di Urano-Plutone, sono proprio quelli i gradi sui quali avverrà la lotta fra questi due pianeti, questi due titani. E allora io suggerisco ai nati a marzo di frenare un po' la baldanza arietina, di non lanciarsi in imprese, progetti, passi, iniziative che dovessero essere un po' troppo entusiasmanti all'inizio e poi magari rivelarsi fallimentari o comunque miracolosi solo per chi li ha proposti questi affari all'Ariete, che potrebbe uscirne fuori un po' scornato. E insomma, ecco, bisogna stare attenti a non fare il passo più lungo della gamba. E allora qual è il periodo più giusto per prendere in considerazione queste proposte e dire sì, ok, accetto? E se fossi un Ariete di marzo, sì, starei un po' abbottonato almeno fino ai primi di ottobre. Ah, quindi molto sì, tempo. Sì, questo non vuol dire che l'Ariete di marzo non avrà i soldi, ci no, mancherebbe. Certo, È che però sono sconsigliate le imprudenze, in generale sono sconsigliate le imprudenze, ma siccome l'Ariete è un segno di fuoco, baldanzoso, che si entusiasma facilmente, io direi che quest'anno forse, non solo ai nati di marzo, estenderei l'esortazione a tutte e tre le decadi, insomma cercherei di godermi quello che ho raccolto, quello che raccoglierò, e avrei più un atteggiamento conservativo che non speculativo, ecco. Toro. Il toro va bene, anche questo è un altro segno che ha dalla propria parte astri particolarmente propizi, sia dal punto di vista finanziario, sia lavorativo, anche amoroso, perché il Toro cucca quest'anno, quindi al di là di questo dico. Perché il Toro, devo dire che vive un anno di abbondanza, un anno in cui, qui parliamo sempre naturalmente a carattere generale, certo, però il Toro con Giove nel segno prima, con Giove nella seconda casa solare poi, da giugno in avanti, che è la casa simbolicamente riconducibile ai quattrini, al saldo bancario, io credo che il Toro potrà dormire fra più cuscini, perché in tutto questo dibatterci fra difficoltà, debiti, spread, abissi vari, io credo che il Toro sarà quello che si dibatterà un po' meno. Forse da ottobre in avanti comincia un momento di revisione delle strutture portanti della vita del Toro, forse lì bisognerà un po' rivedere valori, non solo i valori del portafoglio, ma i valori che si custodiscono nel cuore. Poi dopo sarà storia dell'anno prossimo. Ecco, questa. Ma questo è anche un atteggiamento mentale verso la situazione? Sì, un atteggiamento mentale che il Toro secondo me avrà, ma non solo mentale, sarà proprio una disposizione d'animo. No? Sì, quindi certo, quello intendevo sì, infatti, più che mentale. Sì, ecco. Questo. E insomma, credo che tutti quanti dovremmo un po' prendere il toro come esempio quest'anno, perché tutti dovremmo avere un po' la disposizione d'animo del toro, che non si dannerà più di tanto. Ecco, quindi vedrà le cose da un punto di vista... Devo dire con relativo ottimismo, ma sempre con la prudenza leggendaria del toro. Quindi va bene anche affiancarsi, per esempio, a un toro, o se qualcuno dovesse avere l'ascendente in toro, faccio un esempio. Devo dire un po' più debolmente, però sì, comunque avere valori toro, quindi l'ascendente o altri pianeti nel toro, può in qualche modo essere d'aiuto ad affrontare con una disposizione d'animo azzeccata, giusta, adeguata a questo momento non semplice che stiamo vivendo. Ecco, so che gli ascoltatori, molti penseranno, ma che panzane, ecco, però invece prendiamo, no? Che, no, ma perché poi comunque i simboli nella nostra vita esistono e hanno una forza a volte incontrollabile. Sai, quindi... sul simbolismo si potrebbero fare mille trasmissioni e spiegare tante cose, ma anche nella nostra vita quotidiana siamo fatti di simboli, senza rendercene conto. Ma anche andando per strada, i cartelli stradali assolutamente sono dei simboli. Per cui comunque, anche se non ci credete, fa niente, prendete le cose così come sono, però è interessante vedere come in realtà spesso alcuni racconti fatti e descrizioni fatte combaciano proprio con la realtà. Quindi vi invitiamo anche a fare così, diciamo qua, questo gioco. Il riposo del guerriero. E mentre andremo a scoprire tra pochissimo quali sono gli eventi sportivi che non dovremo assolutamente perdere quest'anno, io volevo continuare con te, Antonio, e con il Signore dei Gemelli, così per chiudere la prima triade. Va bene. I gemelli secondo me sono il segno da battere quest'anno. Da battere o da abbattere? No, da battere, ma neanche battere, intendo dire da percuotere, no? Da battere nel senso che secondo me meritano proprio l'oro zodiacale quest'anno. Ah, vabbè, quindi... Soprattutto da aprile in avanti ospiteranno proprio i pianeti della fortuna, Venere e Giove. Io credo che sarà questo un segno che, forse arranchicchiando un po' fin verso primavera-estate, poi dopo avrà un exploit dietro l'altro, non solo finanziario ma anche professionale e nel privato. Io credo che i pessimismi, le probabili fatiche, il probabile dover tirare la carretta da solo più di sempre del Gemelli, quindi dei primi mesi, poi verrà sostituito da questo Eldorado. Vorrei proprio sbilanciarmi in questo modo, perché i Gemelli hanno veramente un bellissimo cielo. Quindi cercateli su Facebook, cerco amici dei gemelli, per avere magari più dalla primavera in avanti, perché prima verrebbe voglia di dargli in pasto ai capibara delle Ande perché saranno un po' lamentosi, prima saranno anche un po' sempre con questo acido zitellico a fior di pelle, perché Marte sarà in orbita dissonante. Però direi che poi da giugno in avanti diventano anche i migliori soci in affari. Ah, ecco, quindi insomma è giusto anche farsi amici. Sì. Ecco, aspettiamo la primavera. Però. Va bene, allora seguite il consiglio. Umberto Zappelloni, intanto buon anno, buona domenica. Buon anno. Avete trovato un gemelli. Infatti io ho auspicato un buon anno. Ci stavo arrivando. Ecco, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ci stavo arrivando perché le stavo chiedendo di che segno, però già immaginavo. Quindi ha detto l'Eldorado, Zappelloni, per cui l'Eldorado è qui. Nulla di preparato, pur se il nostro Capitani è una colonna della nostra Gazzetta, non abbiamo preparato nulla. No, è vero, è un buon inizio dell'anno. Diciamo. Ciao, buon anno a te. Bene, adesso vi chiederò l'amicizia a entrambi su Facebook, che non mi porti buono in questo 2012. Allora, Zappelloni, che cosa non dobbiamo assolutamente perdere quest'anno? Abbiamo gli eventi sportivi davvero importanti. È un anno pari, quindi un anno ricco, un anno pieno di golosità per lo sport. Si comincia con gli europei dall'8 giugno al 1 luglio, europei in cui l'Italia dovrebbe giocare un ruolo da protagonista. Il girone non è facilissimo, perché ricordiamolo, abbiamo la Spagna, abbiamo l'Irlanda di Trapattoni, abbiamo la Croazia, ma abbiamo delle grandi chance di passare il turno e quindi di goderci un po' di questi europei andando avanti nella storia a giugno. E poi è un anno olimpico, l'anno di Londra 2012, si comincia a fine luglio il 27 per finire il 12 agosto e per le Olimpiadi negli ultimi anni olimpici abbiamo sempre avuto un calo delle nostre medaglie, però i pronostici che ci arrivano dagli esperti del CONI ci danno un medagliere in crescita. A Pechino, ricordiamolo, avevamo vinto 27 medaglie in tutto, i pronostici ci danno sopra le 30 medaglie. È una speranza, è un sogno, ma soprattutto i pronostici dicono che per la per gli azzurri sarà un anno in rosa, cioè ci potrebbe essere il sorpasso delle medaglie al femminile nella nostra spedizione olimpica. Beh, qualche soddisfazione l'abbiamo avuta anche da questo punto di vista nel 2011. Nel 2011 quindi... abbiamo avuto degli antipasti straordinari grazie a Federica Pellegrini e alla Vezzali, che sono ancora le punte di diamante della nostra spedizione olimpica, oltre alla nazionale di pallavolo, alla Sensini. Insomma, abbiamo le nostre donne che sicuramente... si aspettano un 2012 ricco di soddisfazioni. Ecco, io volevo poi invitare gli ascoltatori, siccome quando ci sono le Olimpiadi non si perdono, si seguono, ci sono sport che prima assolutamente sconosciuti che a un certo punto diventano subito famosissimi, mi riferisco per esempio a quelle invernali con il curling, di cui nessuno sapeva appunto di cosa si trattasse, poi tutti avevano quella parola in bocca ogni giorno, no? Perché poi esatto, destano anche curiosità. Sono Olimpiadi estive, è un po' più di estive, poi il ruolo del curling, potremmo dire, l'ha avuto almeno a Pechino e ancora prima ad Atene il tiro con l'arco, perché il tiro con l'arco ci ha regalato delle medaglie. È uno sport che è diventato molto televisivo perché assomiglia forse a un videogioco e quindi attira magari anche i ragazzini. Noi già ad Atene avevamo fatto una grande prestazione, poi a Pechino 4 anni fa eravamo comunque arrivati all'argento nelle squadre, nel gioco di squadra, quindi e quello è sicuramente uno sport molto, molto televisivo, anche perché, come dicevo, ricorda molto un videogioco. Poi noi siamo fortissimi anche, ad esempio, nel tiro a volo skeet, la Caineiro aveva vinto l'oro 4 anni fa a Pechino, oltre che insomma, nella scherma è una miniera di medaglie per noi italiani, lo è sempre stata nella storia olimpica e continuerà ad esserlo. Ecco, volevo invitare, dicevo, ascoltatori anche a seguire le Paralimpiadi, perché a volte si dimentica. Siccome avvengono qualche giorno dopo e invece... Hai ragione, vanno in onda solitamente a fine dei giochi veri e propri, ma sono uno spettacolo straordinario di umanità, perché questi atleti che si sfidano poi in tutte le specialità olimpiche si portano dietro delle storie di un'umanità straordinaria e i loro sforzi in gara credo che aiutino un po' tutte le persone che hanno avuto la sfortuna di ritrovarsi poi durante la vita con un handicap. Sono storie che sono degli esempi straordinari. A Londra credo che il nostro porta bandiera olimpica, per la fama che si porta dietro e per la persona che è lui, sarà Alessandro Zanardi che parteciperà alla maratona in handbike, sarà sicuramente uno degli uomini vetrina di questa Olimpiade di Londra, anche perché lui arriva con una sua storia di un'umanità straordinaria. Lui, ricordiamolo per i pochi che non lo sapessero, è rimasto vittima di uno pazzesco incidente automobilistico in una gara della Formula Americana, anche se disputava in Europa 11 anni fa, nel settembre di 11 anni fa, ed è rimasto praticamente senza le gambe. Da allora si è dedicato all'handbike e ha già vinto l'anno scorso, ha vinto la maratona di Milano, ha vinto la maratona di Firenze, ha vinto anche la maratona di New York nella sua categoria, ed è una delle nostre grandi speranze, sicuramente l'uomo copertina che farà bene a tutto il movimento olimpico e paraolimpico italiano. Concordo assolutamente con te, e per chiudere volevo chiederti se sai se saranno molti gli eventi tridimensionali, perché credo che anche quest'anno la televisione in 3D, quindi gli eventi sportivi in 3D... La televisione ci ha dato dei grandi assaggi con le ultime partite di dicembre del campionato italiano e sicuramente si prepara per l'europeo e per l'Olimpiade a darci ancora di più, a farci entrare ancora di più nelle arene dei giochi olimpici, che le Olimpiadi sono un classico spettacolo televisivo, sono 959 le medaglie che verranno assegnate a Londra e quest'anno ce le potremo vedere tutte comodamente in televisione, e credo per i fortunati che posseggono un abbonamento e un televisione in 3D potranno mettersi gli occhialini e vederle in tre dimensioni. Ecco, quindi assisteremo quasi come se fossimo lì, poi per chi ci potrà andare veramente. Una freccia in faccia, speriamo di no, questa però. Sensazione rimane quella. Grazie Umberto Zappelloni, grazie a voi, buon anno. Ciao Umberto, buon anno. Ciao, ciao, grazie. Vedi, neanche bisogno un gemelli, quindi l'Eldorado siamo a posto. Sono te un po' invidioso, devo dirti. Cancro. Il segno del cancro avrà un anno migliore di quello appena, ci vuol poco, parlo per esperienza perché tu diretta, sei di quel io sono segno. Un cancro, sì, quindi devo dire che se siamo sopravvissuti al 2011 neanche la fine del mondo dei Maya potrà farci nulla, anche se arriva la fine del mondo noi del cancro rimarremo vivi tutti. perché è stato un anno veramente molto complicato. Adesso stiamo risalendo la china, ci sono equilibri nuovi che stiamo ritrovando un po' tutti, grazie sempre a Giove, equilibri anche finanziari. Quindi, visto che stiamo appunto affrontando l'argomento, io credo che fino a giugno, soprattutto fino a metà giugno, il cancro potrà mettere grano nei granai. C'è la possibilità di incrementare i propri redditi, di poter anche far valere di più la propria immagine, quindi non è soltanto un aumento del valore del proprio saldo bancario, ma anche proprio della propria reputazione, della propria credibilità, della propria affidabilità. Probabilmente le dritte migliori al cancro, anche per guadagnare, per stabilizzarsi finanziariamente, potrebbero arrivare da amici introdotti, da persone competenti. Forse è un po' come dire che l'unione fa la forza. È il gioco di squadra, è la dritta che arriva all'orecchio del cancro, la soffiata che può tradursi poi in una speculazione magari azzeccata. Certo, di questi tempi magari sono più le persone che soldi per speculare non ne hanno. Non ne hanno, certo. Però io devo dire che con questo Giove, poi anche da ottobre quando arriverà Saturno che stabilizzerà tante cose, quindi tanti contratti per esempio diventeranno a tempo indeterminato, certi inquadramenti, inserimenti anche così precari del cancro, quindi a progetto, a tempo indeterminato, potrebbero invece tradursi. Beh, questo è sicuramente un bel augurio. Sì. Senti, prima di chiudere e lasciare spazio al GR, volevo chiederti, ma questo vale anche per le aziende? Sì. Cioè, anche le aziende hanno un segno zodiacale di qualunque partenza. Qualunque cosa nasca in quel preciso momento sotto quel segno, comunque porta con sé le caratteristiche simboliche, perché l'astrologia è comunque una disciplina simbolica, analogica, che mette in relazione ciò che sta sopra con ciò che sta sotto. Non c'è rapporto di causalità, uno non è la causa e l'altro l'effetto, c'è semplicemente somiglianza, quindi identità. Pertanto ciò che accade nel cielo in un determinato momento poi assomiglia e rappresenta anche il destino e le caratteristiche di tutto ciò che nasce in quel momento, il varo di una nave, l'apertura di una salumeria, come la nascita di un individuo. Chiaro, sarebbe quindi interessante capire le aziende che sono sotto il segno dei gemelli, cresceranno, quelle del cancro, eccetera. Certo, sì, sarebbe molto interessante vedere anche questo aspetto. Magari informatevi il GR e poi ovviamente torniamo con l'anno che verrà nel riposo del guerriero. Ancora buona domenica e buon anno da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero, l'anno che verrà, e adesso vediamo cosa ci aspetta dal punto di vista televisivo e cinematografico quest'anno, cosa ci verrà proposto. E io direi di cominciare con la televisione e con questa voce. Sono state scritte centinaia, migliaia di canzoni, è sempre più difficile portare qualcosa di nuovo, è una ricerca continua, sperando di trovare il nuovo Vasco Rossi per quello che riguarda i giovani, ma per quello che riguarda gli artisti big, insomma, la qualità, cercare di mantenere alta la tradizione di Sanremo, perché da lì sono uscite canzoni che poi erano fatte il giro del mondo. Le case discografiche non hanno più il monopolio della musica, voi andate a cercare anche altrove, è una cosa importante. Sì, dobbiamo cercare dappertutto, ci sono molti artisti che non hanno casa discografica, ci sono artisti che comunque hanno una storia, però siccome oggi i dischi si vendono sempre di meno, magari non hanno contratti, non riescono a farsi aiutare da delle multinazionali, quindi noi ascoltiamo anche loro. Ma stiamo uniti, lo diciamo ancora? Siamo uniti, dobbiamo continuare a dirlo, perché a me piace comunque il gioco di squadra. Magari con altre parole, vediamo se ci viene un'altra idea. Quella è una battuta che è nata per caso. Mi auguro che per caso ne nasca una altrettanto forte. Ecco, è difficile trovare qualcosa di nuovo, infatti c'è ancora Gianni Morandi. Questa era la voce che andava riconosciuta, l'altra voce che andava riconosciuta è quella di Marta Cagnola, ma so che l'avete riconosciuta. Ciao Marta. Un saluto a tutti. Ebbene sì, Gianni Morandi, dai, abbiamo bisogno di un po' di solide certezze in questo periodo di cambio. Più solido di Gianni Morandi con quelle manone, chi c'è? È vero, però io devo dirti, l'anno scorso, quando c'è stato quel duetto tra Morandi e Ranieri, Ranieri mi è sembrato molto a suo agio, bravo, perché insomma ama il teatro, sa stare sul palcoscenico, e io in quel momento ho detto, secondo me l'anno prossimo condurrà Ranieri, ho sbagliato. Però tu cosa pensi? Sai che anche noi in sala stampa ci siamo detti all'istante, è un passaggio di testimone, sarebbe stata, allora io sono affezionata a Morandi perché poi è una persona molto simpatica, non discuto questo, sì, proprio, Però sembrava quasi un passaggio di testimone. Il segreto di Sanremo, del Sanremo di Morandi della l'anno scorso, è stato avere Morandi rassicurante e Luca e Paolo che facevano. Quest'anno non si sa ancora, perché in gennaio ci sveleranno cosa succederà. Marta Cagnola, tu no, sul palco dell'Ariston, uomini comici, poi la donna la vogliono internazionale. No, allora sono in trattative con Tamara Eccleston, che è miliardaria. Ma io volevo chiedere a Gianni, visto che appunto ho fatto questa telefonata, Gianni, ma perché non le chiedi se viene gratis? Dopotutto è una vetrina. Ecco, certo. Io andrei gratis, perché Tamara, e non sono miliardaria, e non ha bisogno, Tamara, dici? Non va gratis. Io sono concorde con te, poi in questo periodo appunto così di crisi, quindi voglio dire è anche un buon gesto. Pensa che botta poi pubblicitaria a dire io sono andata gratis, certo. Incredibile. Vabbè, quindi? Comunque, la TV quindi, a parte questa di Sanremo, di molto non si sa, se non che Morandi condurrà. Sì, si sa ancora poco, perché tutto verrà svelato il 10 gennaio, quindi avremo i cantanti che avranno tutti un abbinamento con un ospite straniero, perché faranno dei duetti in una delle serate, quella tradizionale dei duetti dei giovedì, e poi questo cast che sarà attorno a Morandi, perché effettivamente quello fa tutto, l'anno scorso ha fatto tutto questo abbinamento con Luca e Paolo, le due signorine variopinte che hanno avuto poi alterne vicende durante l'anno, perché poi appunto Gianni Morandi diceva stiamo uniti, non è un one man show come quello di Fiorello, è una cosa più complessa da costruire. Sicuramente. E la TV cosa ci proporrà d'altro? La festa di Sanremo a parte, che nessuno guarda ma tutti guardano. Sì, nessuno confessa, cioè, è il guilty pleasure per eccellenza. Ma guarda, allora intanto per quanto riguarda gli show, si vocifera tanto di un prossimo one woman show di Michelle Hunziker, perché potrebbe essere la prossima ad approdare proprio in televisione con uno show alla Fiorello. Non so bene come possa essere, perché lei non è esattamente come Fiorello, però è quello che è sulla bocca di tutti. Poi tantissime serie televisive, io mi sono segnata qualcosa, po' di anticipazioni, sì. Sono molto curiosa di questa C'era una volta, perché è molto particolare, è una favola, ma una favola per grandi. Poi abbiamo Grimm, che è un'altra serie fantasy di fantascienza per gli amanti, Alcatraz, J.J. Abrams, e quindi insomma qualcosa di molto molto molto atteso, insomma anche qui una serie un anche po' tra... di fantascienza, insomma, e poi Il Trono di Spade, che abbiamo cominciato a vedere, che sta appassionando tutti. Adesso andrò in vacanza anch'io e quindi farò una maratona di serie televisive. È talmente bella che in America non stanno ancora girando la seconda stagione, che partirà a giorni. Ma e già se la hanno stanno deciso... guardando? Ah, no, hanno già firmato per la terza e per la quarta. Certo. Che è una cosa incredibile, quindi è sicuramente la serie. Ma lì perché hanno messo dentro un po' tutti gli ingredienti, no? C'è tutto, c'è tutto. Infatti io me la guarderò tutta insieme, perché non posso E serie resistere. Invece gialle, diciamo così, che hanno avuto grande successo negli ultimi anni e che però forse hanno, non dico stancato, ma è difficile trovare qualcosa di nuovo. Allora ti dirò di più, è talmente difficile trovare qualcosa di nuovo, che ci sono un sacco di serie che stanno chiudendo per quanto riguarda quelle gialle. Allora, ad alto rischio di chiusura sono CSI Miami, CSI New York, poi sono a rischio di chiusura anche Fringe, House, Private Practice, Harry Slow, dalla parte invece più legal drama, insomma tutto questo sta per chiudere, non c'è niente di nuovo, bisogna inventarsi qualcosa. Quest'anno si sono inventati, nella stagione che è iniziata nel 2011, delle cose nuove che sono già a rischio di chiusura, quindi è stato un anno un po' difficile, perché è iniziato Charlie's Angels, una tragedia, e quindi già sì, non, ridi e non l'hai visto? No. Allora, se, non lo sapevo neanche, ecco, adesso me lo dici. E... se per caso ti capitasse, certo, non ti sto consigliando di fare cose illegali, ma se per caso ti capitasse di incrociarlo, rideresti il doppio. È veramente assurdo, hanno rifatto Charlie's Angels, già cancellato praticamente, quindi non c'è nulla di nuovo sotto questo punto di vista, è un dramma creativo per la TV americana. Se reazioni stunt nel nuovo Charlie's Angels sono come quelle degli anni 70, sicuramente avrebbe dovuto chiudere dopo un minuto e mezzo. Ti risponderò con un ma magari. Il riposo del guerriero. Abbiamo parlato di serie televisive con Marta Cagnola, tra poco parleremo di film e parlando di attori mi è venuto in mente il Signore del Leone, Antonio. Vabbè, capito? Sì. Attori per eccellenza, che, sempre certo, sulla scena, anche quando non sono sul sempre palco. Sempre alla ribalta, sempre con il riflettore puntato, certo, addosso. Il Leone forse è uno dei segni che soffriranno un po' di più la crisi nei primi mesi dell'anno, almeno fino ad aprile, quando poi interverrà invece Venere, che è un pianeta di benessere. Però fino ad allora Giove è contrario, Marte transita nella loro seconda casa solare, che è la casa del denaro. Cosa vuol dire? Marte è subbuglio, Marte è precarietà. Giove a 90 gradi, quadratura, non è promessa di prosperità economica, quindi senza adesso volerla gettare nel dramma, ci mancherebbe, perché poi comunque il Leone ha dei supporti astrali, Saturno e Urano per esempio, che sono eccellenti, quindi lo fanno restare a galla. Però forse il piatto piangerà un tantino per il Leone, che si risolleva a partire da aprile e ancora di più da giugno, quando nuove opportunità per brillare, si diceva poco fa, sì, appunto del riflettore, quando probabilmente anche uno sblocco di certi progetti, di certe promesse anche che verranno rivolte al Leone e che forse all'inizio non verranno mantenute, poi invece verranno rispettate. Quindi devo dire che inizia un po' col freno a mano tirato, ma Leone, poi dopo va bene. Quindi usando una parola di Francesca Dragotto, fra quelle scelte per il 2012 abbiate fiducia. Abbiate fiducia, ecco, sì, certo. Non abbiate paura dello spread. No, non spreadatevi, no. Vergine. La Vergine, che so che ti riguarda, che ti interessa in modo sì, particolare. Certo. Guarda, la Vergine a me piace molto perché ha una prima parte di anno, devo dire, particolarmente stimolante. Marte, Giove, Plutone, tutti a favore di questo segno. Adesso poi arriva la batosta. No, non direi. Al massimo potrebbe esserci un momento di opacità, sì, ma non batosta. La Vergine, devo dire, che è molto ben appoggiata dalle stelle del 2012, che velocizzano anche la realizzazione di cose sulle quali magari la Vergine ha lavorato per un po' di tempo. Questo, la miscela Marte-Giove a me piace molto per il lavoro, perché è un po' questo innescare, dare fuoco alle polveri, ma in senso positivo, sì, e quindi realizzare tutto ciò, o quantomeno gran parte di ciò, sul quale ci si è applicati per tanto tempo. Beh, anche perché la Vergine notoriamente semina, e poi sì, alla fine vorrebbe anche raccogliere qualcosa. Ma raccoglierà, sennò, secondo me, molto bene anche, ti ripeto, almeno fino ai primi di luglio. Dimmi, prima della profezia dei Maya, perché io vorrei raccogliere prima, perché sennò... Sicuramente, certo, ma anche oltre poi. Quindi mi piace molto poi anche dopo questo momento, come dicevo prima, un po' di appannamento che potrebbe essere l'estate, sì, con Giove contrario. Poi però arriverà il settimo cavalleggeri per voi, dai primi di ottobre, Saturno, che è, devo dire, un supporto straordinario, perché consolida un po' tutto quello che fino a quel momento poteva essere precario, porta i contatti giusti, vi fa anche scremare i contatti. Si dice Saturno in tre porta il vuoto intorno a sé. Perché dico questo? Perché transita nella vostra terza casa solare, che è la casa delle pubbliche relazioni, dei contatti, della socialità. Quindi quelli che non funzionano, che non sono, possono essere importanti, vengono cancellati tranquillamente. Sì. Però devo dire che ha una partenza in quarta, un momento di riflessione nella parte centrale dell'anno, e poi dopo tutti i meriti della Vergine, i talenti, le capacità della Vergine vengono riconosciuti. Io amo molto questo segno perché non si parla mai troppo bene di questo segno. Io invece trovo che abbia una sensibilità, un senso dell'umorismo, uno spessore che vanno oltre questa immagine un po' da zitella che la facile manualistica astrologica le ha un po' costruito. Ecco, attorno. Ti ringrazio per questa cosa, non eravamo d'accordo. Adesso voglio far stare sulle spine Marta Cagnola, invece, che essendo una bilancia, e dopo il Signore della Vergine ci sarebbe la bilancia, ma invece io chiedo a te, Marta, aspettiamo di sentire la bilancia come andrà. Prima no, regalaci una tua perla per quanto riguarda il cinema. L'anno scorso ha azzeccato tutto. Lo immagino, è certo. E quindi sono davvero malgrado gli ascoltatori scrivono, ma di cosa parla? Sai, quando si parla di astrologia su Radio 20. Su quali basi? Perché come tu hai detto, non ci sono dei pregiudizi su un segno, sì. Ci sono i pregiudizi sull'astrologia. Per cui, però voglio dire, uno può anche prendere le cose così. È il primo dell'anno, non è che, giusto, ma Marta? Dai, poi è un'altra cosa che non si confessa, come Sanremo, diciamo che non ci credo per niente, è una cosa stupidissima, però vado subito perché alla pagina dicono che non ha basi scientifiche, forse, ma sai, è un po' come se tu mettessi un neurologo a studiare la psicologia. Un neurologo non vedrà mai il complesso, il blocco affettivo, perché non hanno una realtà fisica. E questa è un po' la stessa cosa che fanno gli scienziati, gli astrofisici, con l'astrologia. Certo, no? Ma quindi, infatti, ma è semplicemente, voglio dire, le cose bisogna sempre prenderle da un certo punto di vista. Per chi non ci crede va benissimo, si possono prendere come dicevo un divertimento, così si ascoltano. Ma che con un pizzico di curiosità. Curiosità, no, questa vale sì. Per tutto. E quindi ci sta assolutamente. Marta, che cosa non possiamo perdere al cinema quest'anno? Ho subito un consiglio per te, perché so che tu sarai felicissimo. Vai. L'anno scorso ti avevo consigliato i Puffi, ti ricordi? Ti ringrazio, ma non li ho visti. Ma mi deludi moltissimo, mi perché detto, il 3 infatti. Febbraio sì. Invece escono i Muppet. Ah beh, no, però. Ecco, dai, realtà, quello è. Ecco. Va bene, ecco. In Muppet ci siamo. Ce la possiamo fare. Tra l'altro, io Muppet. Sono un grande fan di Avenue Q, che è un musical fatto con i pupazzi. È bellissimo. Lo so, però, come sempre, le cose belle. L'ho visto anche qua. Non Milano, sono, ragazzi. Lo so, però, niente, non si ripeterà in ma italiano. Speriamo purtroppo. Che sull'onda del film, sperando che abbia successo il film sì. In Italia, 3 febbraio la data prevista per ora. Spero che non sia 3D anche questo. I Muppet 3D. Ma ormai facciamo anche 4, 5D, 6D. Ormai è tutto 3D. Ma invece, non solo, sai che esce il 6 aprile Titanic in 3D? Ma è lo stesso film? Certo. Ma non è stato girato in 3D, quindi è tutto ricostruito al certo. Computer per dare l'illusione della profondità. Certo. Che rabbia. Beh, l'abbiamo già fatto con Re Leone, però il Re Leone era carino perché era animazione. Però film voglio non dire, ho idea. Il 3D ha un senso quando è importante il 3D. Per esempio, per chi non l'avesse visto, c'è The Hole, è un film horror, niente di che. Ma lì il 3D ha davvero un senso, perché parlando di un buco, allora è la prospettiva che diventa interessante. Oppure Coraline, è un altro film dove il 3D ha una sua importanza, ma altri davvero tanti film di Pixar, per esempio, 3D o 2D non perdono assolutamente niente, non hanno, cioè, non è che acquistino qualcosa in più. Lo dico con grande passione e amore per Pixar. Fra l'altro, fino al 14 febbraio ricordiamo ancora la mostra al PAC bellissimo, di Milano. Ormai la conosco a memoria, infatti ho pensato anch'io. Di mandare un curriculum per fare da guida, perché ormai la conosco a memoria, è bellissima. Allora Muppet, Titanic, ma possiamo Titanic. Anche perderlo. Vabbè, certo. Allora subito si parte alla grande con l'Italia perché sì. Abbiamo il 4 gennaio Immaturi il viaggio, che è praticamente una sorta di sequel seguito, di Immaturi sì. E il 18 Benvenuti al Nord, che è il seguito di Benvenuti al Sud, quindi insomma di due dei più grandi incassi dell'anno scorso al cinema appena dopo Natale. Quando l'anno scorso uscì dopo Natale, che col Salone tutti dissero sì, ma che uscita è dopo Natale? E invece questo è il segno del cambiamento delle abitudini. Andiamo al cinema dopo Natale a vedere i film, perché poi insomma i cinepanettoni forse sono un po' cambiati. Hanno un po' stancato? Ma chi lo sa, vabbè, chi lo sa. Così. Vedremo alla fine della stagione, faremo i conti, tireremo le somme. Li aspettiamo al varco, facciamo le somme finali. E poi in gennaio, beh, Mission Impossible, Protocollo Fantasma, molto atteso anche questo. Poi arriverà sempre all'inizio di febbraio Hugo Cabret, Martin Scorsese. Quindi poi se vuoi andiamo avanti anche con i mesi, perché poi appunto i Muppet. E quest'anno ci saranno i due film di Millennium, Uomini che odiano le donne, per chi ha amato molto i romanzi della saga. E poi sempre Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma, e tu dirai ma l'ho già visto nel 98, sì ma 3D, 10 febbraio, <Pure questo. ride> e beh è l'industria ragazzi, bisogna tirare su un po' bisogna di eurini, vedere eh? Se funziona però alla fine, perché sì. Ricordo che costa anche spesso un euro in più il biglietto costa per i film 3D, in più, infatti... per cui alla fine uno dice vabbè ma se non cambia nulla cosa vado a vederlo a fare? Sì, no. In realtà appunto, infatti spesso i dati degli incassi sono un po' drogati da questa differenza, però insomma, certo. Poi ancora tanti supereroi, l'anno scorso avevamo parlato di supereroi e i supereroi tornano, abbiamo The Avengers, The Amazing Spider-Man e poi ancora per i sequel L'Era Glaciale 4, Continenti alla Deriva, però questo ci piace, cioè L'Era Glaciale va sempre bene. con un nuovo prodotto che invece arriva sempre dal nostro straordinario creatore John Lasseter, Brave, coraggiosa e ribelle. Abbiamo una supereroina femmina e sono molto contenta. Da Pixar questo? Ebbene sì, e poi si arriverà alla fine dell'anno con, mi sento già un rullo di tamburi nel mio cervello, Lo Hobbit. L'abbiamo atteso per quanto tempo? Che troppo, sarebbe l'antefatto del Signore degli Anelli? Sì. Diciamo che è tratto sempre da, sì, da uno straordinario romanzo di Tolkien. Non so come sarà reso cinematograficamente, però insomma il fatto che sia firmato da Peter Jackson insomma ci fa sperare. E sarà anche questo in 3D ovviamente. E guarda, sai che non ho idea se hanno fatto una versione in 3D. Ma lo stiamo aspettando da talmente tanto tempo. Ho come la sensazione che possa essere così. Possiamo fare che a tradimento non ti diciamo se un film è 3D o 2D, ti portiamo al cinema, sì, ti usciamo l'occhialino lì al momento, così sei costretto a metterli e lo vedi. Va bene, vabbè, io sono un grande fan del 3D, voglio dire. Ma ti capisco, è così, deve essere ragionato, deve essere inserito nella trama. E adesso la passione è quella degli horror in 3D. Io non li guido neanche in 2D, vediamo. Vediamo cosa accadrà. Sì. Tra poco respireremo anche comunque i profumi e gli odori al cinema, perché bisognerà sempre, io mi ricordo, l'odorama, il 3D nasce nel 1950 al cinema, quando c'è stata la crisi negli Stati Uniti, grazie alla televisione, per cui nessuno riempiva più le sale, e quindi il 3D nasce per questo motivo nelle sale cinematografiche. E oggi in fondo è la stessa cosa, è stato un modo per riportare le persone in sala, e quindi dopo credo che si debba arrivare a qualcos'altro, o ai film a 180 gradi, o piuttosto che l'odorama. Questo è molto probabile, altro, anche perché il cinema deve sempre più diventare un'esperienza totalizzante di divertimento globale, perché altrimenti i film rischiano di essere visti in altri modi, su altre piattaforme. E comunque sia, un film visto al cinema è sempre un'altra cosa, al di là di tutto e ma di non qualunque c'è proprio paragone, grandezza, cioè, di schermo è un'esperienza già uscire di casa per andare al cinema. Assolutamente sì, e purtroppo le persone dopo i 40-50 lo fanno un po' meno. Ma noi siamo lontanissimi da quell'età lì, ci mancano ancora 30-40 anni, certo, ovviamente. Grazie Marta Cagnola, se vuoi restare qui tra poco c'è il Signore della Bilancia. Io rimango apposta, grazie. Il riposo del guerriero. Come promesso, è il momento di capire come vivrà questa crisi il Signore della Bilancia, Antonio Capitani. Eccoci. Però prima c'è una chicca ancora di Marta Cagnola che riguarda un film 3D che vedremo. Che cos'è? Io sono sicura che lo vedremo, perché l'ho chiesto personalmente al distributore, perché non può non vederlo il pubblico. Allora, il distributore è De Laurentiis. Sì. Il film era stato prodotto da suo padre, da De Ponti, che nel 1953 si erano inventati la Podel Vision, cioè una casa di produzione che doveva produrre film in 3D. 1953, come dicevo, appunto quello era il periodo, 1953, Totò in 3D, io ho girato in tre dimensioni, esattamente pensato per il 3D. L'inizio è straordinario perché c'è Enrico Viarisio, che era un vecchio attore dell'epoca, che spiegava al pubblico che cosa sarebbe stato questo 3D. Allora prende una pistola e spara dell'acqua, porge i fiori alle signore, lancia delle palline. Perché non ebbe un seguito questa cosa? Perché la gente si sentiva male, aveva paura, stava male, non era abituata, e quindi dopo pochissimi giorni lo tolsero dalle sale, rimasero solo delle copie in 2D in circolazione, è sparito per anni, e adesso è stato restaurato, e De Laurentiis ha promesso arriverà in sala. Lo vedremo, allora, meno male. Bilancia, Antonio. La Bilancia, che ha un momento di grande rilancio a partire dalla primavera-estate. Perché io continuo a dire questa primavera-estate? Perché quest'anno nel cielo ci sono orbite planetarie che fino a giugno sono in un modo. Da giugno in avanti, nella fattispecie sto parlando di Giove, da giugno in avanti invece Giove si sposta in un altro segno, quindi darà una coloritura diversa al destino, all'anno, dei segni. Quindi magari chi era più avvantaggiato nei primi 6 mesi potrebbe essere un pochino più, non dico ostacolato, ma forse meno considerato dalle stelle nei secondi 6 mesi, e viceversa. La Bilancia fa parte della prima categoria, ovvero il secondo semestre è più brillante, è decisamente più proficuo, perché Giove, che è il pianeta dell'espansione, il pianeta del successo e del benessere, porta proprio alla bilancia anche un po' di ricompensa a tutte le cupezze che ci sono state e che in parte, soprattutto per chi è nato nella terza decade, potrebbero permanere. Però la bilancia ha una ripresa straordinaria perché? Perché se è libero professionista potrebbe allargare il parco clienti, se vive di collaborazioni potrebbe portare a casa rapporti di collaborazione nuovi ancora più redditizi, se svolge un lavoro da dipendente potrebbe essere apprezzato e quindi vedere tradotti gli apprezzamenti in moneta sonante. Quindi prima forse fa un po' fatica. Ma poi? Fino ad aprile, maggio, la bilancia un po' arranca, poi dopo prende... Ecco, quindi via. Marta, ecco... Poi se... mi diventa l'anno, mi diventa in 3D. E assolutamente, e senza occhialini, e quella è la cosa bella. E Scorpione? Lo Scorpione che ha, devo dire, una situazione planetaria particolarmente curiosa, perché Marte e Plutone, che sono i pianeti che governano questo segno, saranno in orbita armoniosa. Questo che cosa vuol dire? Che lo Scorpione farà le cose che più sono nelle sue corde, proprio perché ha Marte e Plutone, i pianeti che lo governano, propizi. Io credo che vedremo tanti Scorpione più soddisfatti e meno cupi quest'anno. Forse all'inizio dell'anno il piatto potrebbe un po' piangere, Giove in opposizione, ma non vuol dire necessariamente scarsità di denari, vuol dire anche capire dove si sbaglia, capire fino a quel momento che cosa si è commesso di errato nell'amministrare i propri denari. L'opposizione illumina, Giove è in opposizione allo Scorpione. Dopodiché invece Giove entrerà nel segno che rappresenta la casa ottava, quindi mutui, finanziamenti, denaro degli altri, che può arrivare nelle tasche dello Scorpione, che può investire, che può quindi chiedere appunto un sostegno, una sovvenzione, e può anche ottenere licenze, permessi. Quindi dopo direi che l'anno va bene in linea generale per lo Scorpione, forse non sarà quello proprio da stappare lo champagne tutti i giorni. Poi da ottobre arriverà Saturno nel segno, e lì lo Scorpione dovrà forse fare i conti con tutto ciò che fino a quel momento aveva avuto un senso e che improvvisamente potrebbe averne un po' meno. Beh, rivedere un po' le cose. Ma di questo parleremo. Vediamo, anche perché tu parli di ottobre, così bisogna capire cosa accadrà, no? Venerdì 21 dicembre, anno 2012. È questa la data che antiche profezie indicano come la possibile fine del mondo. C'è chi prevede l'Apocalisse o l'Armageddon, e chi invece parla di una nuova era cosmica, un'epoca di grande pace e armonia. In entrambi i casi i segni premonitori sembrano iniziare già a manifestarsi. E tutto ciò che c'è da interpretare è scritto in tempi antichi nella pietra e nei calendari segreti di un antico popolo americano, i Maya. Vincenzo Reda, ciao, buona domenica. Ciao, ciao. E buon anno, ovviamente. Tu sei autore del libro 101 Storie dei Maya, che dovresti conoscere prima della fine del mondo. Beh, un bel modo per venderlo in questi giorni. Perché alla fine del mondo, abbiamo visto, era quasi la fine del 2012. Ma allora, Vincenzo, quali sono queste 100? La prima delle 101 cose che dobbiamo sapere qual è? Che i Maya non hanno mai fatto profezie. Ecco, quindi siamo già a posto. Ecco, questa, hai già detto tutto con questa risposta. Potremmo già allora, anche salutarci, ma non è così. Allora, ascolta. Nel 1987, sì? Un geniale professore d'arte americano del Minnesota, che si chiamava Joseph Anthony Argillis, pubblicò un libro, '87, che si chiamava Il fattore Maya, la via al di là della tecnologia. La persona in questione, che tra l'altro era anche uso a droghe pesanti, tipo sì, LSD, perché era un pittore tra l'altro molto in gamba, aveva scoperto che c'erano dei lunghi cicli Maya, uno dei quali terminava nel 2012 al 21 dicembre. E il delirio è cominciato poi tutto lì. Perché anche il nostro vecchio Peter Colosimo, che sproloquiava in maniera adorabile su extraterrestri, eccetera, questa faccenda qui ancora non la sapeva. Allora, il professore ha scoperto questa coincidenza e poi avanti Savoia, tutti si sono gettati su questa via. Ecco, quindi la prima cosa da sapere è che semplicemente è la chiusura di uno dei cicli del calendario Maya, però non si, sì, chiusura, è come se per noi finisse l'anno, dico bene? Quindi esatto, è un giorno come un altro, tra virgolette, cambia l'anno, sì, ecco, cambia. Tenete il ciclo. Presente, Tenete presente questo. Allora, i Maya avevano un concetto del tempo assolutamente ciclico. Sì. Un giorno era un ciclo, un mese era un ciclo, un anno era un ciclo, poi loro avevano diversi calendari, ne usavano almeno quattro. E uno di questi grandi cicli, che dura 5.125,37 anni più o meno, in realtà sono 1.872.000 giorni, che significa che sono 13 periodi, 13 baktun di 144.000 giorni ciascuno. È un po' complicato, però i Maya erano ossessionati dal tempo. Voi pensate, noi abbiamo dei santi protettori di ogni giorno, per i Maya ogni giorno era un dio, ogni anno era un dio, ogni periodo sacro era un dio, che richiedeva sempre dei sacrifici. Ah, beh, tutti i giorni ci vengono chiesti sacrifici, quindi in qualche modo anche noi ne abbiamo uno di Dio, a quanto pare, no? Ascolti, ecco, un'altra bella cosina ti racconto. I sacrifici Maya, quelli sì, importanti, siccome gli dei erano pretenziosi e volevano sangue, loro volevano il sangue prezioso, quindi chi faceva l'autosacrificio rituale non era tanto il popolino, ma erano per primi i sovrani e i grandi sacerdoti, che dovevano infilzarsi la lingua, o certe volte, ahimè è così, il pene, e donare sangue sacro, che era molto ben accetto agli dei. Beh, quindi l'esempio arrivava dall'alto, e questo dovrebbe essere un esempio anche in generale, ecco, per tutti. Senti, Vincenzo Reda, i 101 sono tanti, posso chiederti qual è la 101esima cosa che dovrei conoscere prima di questo giorno, che non ci sarà? Allora, guarda, la 101esima, visto che tutti sproloquiano senza bene conoscere sì, la cultura Maya, è esattamente l'ultima storia che io racconto, che non è una storia, ma cita un libro di poesie Maya, post-classiche, parliamo del 1200 d.C., stupendo. E i Maya scrivevano poesie come facevano anche teatro, e sono delle poesie molto, molto carine, probabilmente erano dei canti. Ecco, questa sì, è la cosa che bisogna sapere. Ecco, io credo che ci risentiremo prima del fatidico 21 dicembre di quest'anno, perché le curiosità sono tante, 101 cose da sapere anche, ma intanto cominciamo così. La prima ci ha già detto tutto, e quindi... Ascolta, desidero dirti una robina che è simpatica. Quel professore è sì, morto 72enne a marzo di quest'anno. Tu dici che non vedrà mai, certo, non vedrà mai se la certo, cosa così avverrà o meno, non lo potrà mai certo, sapere. Chi lo sa, però, non sappiamo cosa c'è sappiamo, al di là. Noi ci stiamo mettendo del nostro per la fine del mondo, ma i Maya non c'entrano. No, a quanto pare no, è colpa nostra, quindi prendiamoci le nostre responsabilità. Grazie Vincenzo Reda, ciao, buona domenica. Grazie e voi, buon anno. Ricordate, 101 storie Maya che dovresti conoscere prima della fine del mondo. Newton Compton, abbiamo qualche minuto ancora, e quindi io volevo parlare del Sagittario, Antonio. Il Sagittario, che ha una situazione planetaria un po' di nervosismo, sì, almeno fino ai primi di luglio, Marte è contrario, quindi forse per la smania di dare un'immagine di sé un po' anche al di sopra delle proprie possibilità, o anche al di sopra delle richieste che proverranno dall'esterno, il Sagittario potrebbe porsi in modo un po' da guerriero, troppo, andare in giro con il pugnale fra i denti, non va bene. Marte non produce mai, quando appunto suggerisce l'aggressività, non produce mai poi effetti positivi. Dal punto di vista finanziario questo potrebbe avere degli agganci, delle ripercussioni anche, perché essere troppo impulsivi potrebbe spingere il Sagittario, altro segno di fuoco, quindi come si diceva anche per l'Ariete, ad agire con troppo entusiasmo, a comprare la casa che magari poi non potrà permettersi, a rinnovarsi un guardaroba che forse non saprà come pagare. Quindi questo vale un po' per tutto l'anno. Il Sagittario farà dei passi avanti, secondo me, molto considerevoli, e non dovrà avere paura dell'irruzione del nuovo nella propria vita. C'è Urano che invia un trigono, detto in astrologhese, quindi tutto ciò che è nuovo va bene. Il Sagittario non abbia paura di cimentarsi in mansioni nuove, in compiti nuovi, perché da lì potrebbero poi derivare, magari più avanti, guadagni, sicurezze più solide. Quindi devo dire che però per tutto l'anno, ha un anno in cui secondo me valorizzerà di più il proprio valore professionale, ma forse metterà quantitativi non proporzionali di denaro nelle proprie tasche. Il riposo del guerriero. Siamo quasi alla fine del riposo del guerriero del 1° gennaio 2012, l'anno che verrà, e quindi apriamo le porte anche al nostro gastronauta. Il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buongiorno e buon anno. Buongiorno, volevi non invitarmi? No. Siamo anche. Anche perché abbiamo invitato tante persone, quindi anche tu giustamente ci devi assolutamente essere al nostro desco. Ma che cosa vedremo nel 2012? Quali secondo te saranno i ristoranti che cominceranno a fiorire o a rifiorire, i vini che berremo perché saranno di moda, non necessariamente buoni? Ma io credo che torneremo molto indietro. Torneremo molto a low cost, nel senso che più che cose modaiole rinasceranno magari dei concetti vecchi riproposti perché non costano molto. Credo che sarà l'insegna del risparmio e del riciclo il prossimo 2012. Ma non direi però, cioè, attenzione, riciclo non vuol dire quello che viene buttato, dico riciclo nel senso di antica memoria, di prodotti che non sono così costosi. Credo che sicuramente, ad esempio, l'hamburger lo vedo protagonista nel prossimo anno, ma non un hamburger, diciamo, marchiato What's America, ma un hamburger italiano, magari con un prodotto di qualità, con carne magari di origine certa, con del pane molto particolare. Ecco, vedo anche le paninoteche che torneranno ad essere di grande successo, proprio perché sicuramente si può mangiare bene anche con poco. E poi si tornerà a piatti meno ricchi, ad esempio spero che le capesante spariscano dalle tavole degli italiani, perché le dobbiamo portare, poi non servono assolutamente niente, molti cuochi le mettono come orpello. Inoltre spero che spariscano dai tavoli quello che gli chef o i cuochi o i cucinieri indicano come omaggio della cucina, questi santini o ex voto che portano prima di ogni piatto dicendo che è un loro regalo, poi magari li vediamo nel prezzo, magari che qualche piatto è aumentato. Credo che questi debbano sparire, nel senso che sono veramente orpelli inutili. Ecco, io credo che l'inutile a tavola sparirà. Spariranno molti accompagnamenti che sono assolutamente utili. Si andrà alla sostanza, quindi di piatti che contengono energia sufficiente a mezzogiorno per affrontare la giornata, e magari alla sera concedersi anche qualcosa di molto gustoso. Insomma, vedo un qualcosa, secondo me, che non è da dopoguerra, per carità, non voglio fare del pauperismo assoluto, però vedo molto ritornare anche a mangiare a casa, anche alla sera tra amici. Ecco, quindi, senti, i prezzi come saranno secondo te? Si abbasseranno un pochino o rimarranno quelli dell'anno appena passato? Io credo che i vini si abbasseranno, perché alcuni vini ad alcuni prezzi sono imbevibili per gli italiani. Molto probabilmente saranno tutti vini da esportazione, Cina, Russia, Hong Kong e via di seguito. Io credo che andremo su vini intorno ai 15 euro, 15-20 euro secondo me sarà la fascia molto interessante. I ristoranti credo che andremo dai 40 ai 50 euro come fascia media. È dovuto alle circostanze, ma secondo me anche è dovuto a un nuovo stile di vita. Io credo che in questo caso la crisi economica si combinerà con quella ondata salutistica, che in certi casi è eccessiva comunque, e che si stanno combinando. Io non credo andare a mangiare con le tabelle delle proteine, le vitamine ed altro. Magari con la bilancia, certo. Sì, mi viene da ridere su questo. Io credo che ho letto un libro che parla di dimagrire con il cervello, quindi con la propria testa, e non ricorrere alle diete. Ecco, io credo su questo tipo, se vogliamo, di mentalità, e io spero che sia sempre più questa, non l'imposizione dall'esterno, ma che sia un modo di mangiare con la propria testa. Certo, io insomma, lo spero. Veramente tutte le cose andrebbero fatte con testa e con cervello, e quindi anche questa ovviamente dovrebbe essere fatta in questo modo per ottenere risultati che durino per sempre. Grazie davvero e buon anno ancora. Ciao Davide. Buon anno a tutti i mangiatori e tutti i gustosi. Non rinunciate a niente, Assolutamente, magari comprate meno telefonini o d'altro, ma non rinunciate al cibo. Mai, assolutamente, appunto come dicevi, invitando anche gli amici, quindi trovare un pretesto per mettersi ai fornelli. Grazie ancora Davide, ciao. Antonio, siamo quasi agli sgoccioli, abbiamo il Capricorno, l'Acquario e i Pesci. Come si comporteranno e come vedranno la crisi in questo 2012? Devo dire che il Capricorno resiste molto bene, ha un inizio come sempre, non lo ammazza nemmeno la bomba al neutrone il Capricorno, perché ha delle capacità proprio di resistenza e di reazione che sono straordinarie. Bene, devo dire che va bene un po' per tutto l'anno, Marte e Giove soprattutto fino all'inizio dell'estate, rendono il Capricorno forse anche un po' meno prudente, ma a ragion veduta. Il Capricorno non si butta mai allo sbaraglio. Il Capricorno può ben sperare di vedere incrementare i propri redditi, perché anche lo vedremo più creativo, c'è proprio l'inventiva, l'estro del Capricorno, che noi siamo abituati a vedere sempre un po' asburgico, così tutto d'un pezzo tetragono. In realtà quest'anno vedremo tanti Capricorno bravi nel portare a casa i quattrini dall'inizio dell'anno alla fine, in modo particolare nel primo semestre, però poi anche dopo, quando Giove entra nella casa del lavoro, quindi il lavoro diventa più redditizio, anche chi non ce l'ha può ben sperare di trovarlo quasi da subito, soprattutto da ottobre in avanti, grazie a Saturno, stabile. Bene, benissimo per loro ovviamente. E gli Acquario? L'Acquario, che forse parte un po' arrancando e trampellando, perché Giove è contrario, questo Marte nella casa dei denari liquidi, degli investimenti, delle eredità che possono arrivare dalla zia Cunegonda, ma potrebbero non andare poi a buon fine. Tutto ciò che è correlato a questioni di denaro con terze persone potrebbe richiedere all'Acquario un po' di sbattimento, tensioni. Forse non tutto ciò che, ripeto, è collegato a beni in comune con altri andrà a buon fine. Avranno molto recupero crediti, quindi. Da giugno in avanti, secondo me, poi portano a casa, devo dire, quantitativi anche rassicuranti di denaro. Il più è superare lo scoglio del primo semestre, perché Giove è contrario e quindi potrebbe forse rendere necessarie spese anche non del tutto preventivate, per esigenze nuove, familiari, attrezzature di lavoro, per tante cose. Mentre poi dal secondo semestre, secondo me, si raddrizza bene la barca economica dell'Acquario. Abbiamo il segno, così, uno dei più discussi dello zodiaco, i Pesci. Ecco. Che io adoro, perché mi fanno morire da ridere. No, non nel senso che io rida di loro, io rido con loro. No, certo, assolutamente. Perché sono, devo dire, mi fanno, perché hanno sempre questi piedi ben saldi per aria, no? Quindi loro quest'anno sì, hanno i piedi proprio avvitati per aria. I Pesci, devo dire che, allora, iniziano l'anno con Marte in opposizione, quindi andare d'accordo con gli altri sarà anche un po' difficile. Può darsi che anche la firma di un contratto, i rapporti societari, tutto ciò che è correlato a relazione interpersonale, sappia un po' di nitroglicerina. Io invito il Pesci a non essere guerrafondaio, a mediare, a negoziare piuttosto che a pretendere, anche in campo finanziario, che però è protetto da Giove. Giove che fino ai primi di, a metà giugno, rende, devo dire, abile il Pesci nell'intortare, nel comunicare, Giove in casa terza. Quindi c'è un uso così abile della parola, che è proprio rappresentato da Giove, e quindi io credo che convincerà tante persone il Pesci a aderire ai propri progetti, ad accogliere le proprie richieste anche economiche, quindi se avesse bisogno anche del direttore di banca da intortare, certo, o del principale o di chi vuole lui. Io, ecco, dopo, da giugno in avanti, Giove in quadratura, bisogna stare attenti a non spendere, a depauperare tutto quello che fino a quel momento. Quindi chiedete, ottenete, ma non buttate via. No, direi di mantenete un po'. Fine anno, devo dire, poi di stabilizzazione su tutti i piani da ottobre in avanti. Ecco, non fate passi più lunghi della gamba, perché avete sentito, non ci sarà la fine del mondo, di direi conseguenza. Di no. Ecco, quindi uno, ecco, non può sperare, c'è tanto poi, no, non pagherò più le rate, perché invece no. Non si può fare, assolutamente. No. Allora, abbiamo chiuso quindi con il segno, ovviamente è anche un po' un'iniezione di fiducia verso, certo, tutti, perché è quello che dobbiamo assolutamente avere, è anche il nostro augurio che le cose possano girare e per il verso assolutamente giusto. Lo auguriamo davvero di cuore a tutti gli ascoltatori. Questa puntata sarà da ascoltare e riascoltare, credo, perché ricordarsi le cose non sarà facile, però potrete farlo con il nostro podcast che trovate sul sito della radio, che è www.radio24.it, ma se volete anche conoscere altre notizie sui vostri segni, c'è la possibilità di farlo con il sito di Antonio Capitani. www.capitanimiocapitani.com, c'è un audioguida al 2012 con annesso PDF, quindi con un riassunto, sono 6 ore di registrazione, mezz'ora per segno, dove poi andrò anche a spiegare mese per mese, segno per segno, che cosa potrebbe accadere nell'anno nuovo. E anche quello di portarselo dietro, ogni tanto sì, ascoltarselo. Oppure leggersi il PDF, ed è proprio sul mio sito. Ti piace il nome del mio sito? Mi piace molto, certo. Ricorda, yes, capitani, mio capitani. Ciao, mio capitani, grazie Antonio. Ciao davvero. A voi, grazie. Ti leggiamo come sempre sulla Gazzetta dello Sport e su Vanity Fair. Grazie ancora, ovviamente Giorgio De Luca in redazione, e un grazie a tutti i tecnici che come sempre collaborano con le nostre trasmissioni. Buon anno ancora da Stefano Gallarini. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.